pomeriggio. Sei bassissimo, non ti ascolto bene. Eccomi, come mi dicevi adesso, Gabio? Sempre un max. Aspetta la nostra pagazione, penso, perché sono nel terrazzo, magari mi sposto un attimino. E allora, come va? Il morale com'è, Gabio? Non è che sia il migliore, sempre ascoltare le stesse cose, peggioramenti con questo virus, mamma mia. Non si sente mai qualcosa di nuovo. Allora guarda, una cosa importante, infatti ci teneva a dirlo, se non lo sapete, è cambiato il modulo per l'autocertificazione. Lo sapevi, Gabriel? L'ho sentito. Allora guarda, è quasi uguale al vecchio, solo che per le dichiarazioni uno si dichiara che non è in quarantena e che non ha avuto mai con il coronavirus. A me me l'ha stampato perché stampate non le ho a casa, quindi devo tenere qui, se però non vanno bene me li danno loro. Allora guarda, adesso che Internet dica la verità, sembrerebbe che i vecchi, diciamo, modelli non sono più validi e ci vuole il nuovo. Tu non hai modo di farlo stampare da qualcuno? Ce li hanno loro in macchina, te li hanno loro subito. Allora io domani, da quando è iniziata questa storia, penso a fare un po' di compere, speriamo che vada bene. Perché sto facendo lo schifo? Come mi ascolti tu, Pomigio? Ma guarda, tu lo sai, io non ho lo strumentino nel foto, però l'intervento è più basso delle altre volte, capito? Sì, ma la radio com'è? No, la radio è comprensibile, almeno per me, capito? Ah, sì. Cos'è che fa schifo di questa radio? Dimmi. Si strappa perché ce l'ho troppo vicino alla bocca. Guarda adesso. Grazie. Ci sono molti embrulli delle cose. Segnale com'è lì a Porto Torres, come sta arrivando. Questo è un apparecchio che non uso mai, l'ho acceso adesso per farlo girare, dai. Eugenio, lo senti al pomeriggio? Ora, gli va a fischiare tutto questo coso, mamma mia. Innesca, aspetta. Eugenio, mi dicevi il giorno vivo? Non ti sentono il pomeriggio. Va bene, pazienza, no. La portatore si è portato da quel difficile, a meno che ci sia per pagazione. Sì, certo, certo. Ripetiti. Devo solo cambiare il microfono, se devo essere un altro microfono. Canale 10, chiamata generale, canale 10, che qualcuno cambiò. Nessuno. Attenzione, canale 10, TQ, chiamata generale, chi c'è interrogativo? Marco Condor, se ci sei, batti un colpo, grazie. Gianni Propeta, se ci sei, batti due colpi, cambio. Attenzione, lupo grigio, ci sei, cambio. Ti conferma, ci sono. Ma siamo solo in due e non so se c'è qualche Eugenio ancora. Hai copiato il servativo? Ah, un attimo che sto mettendo a posto un apparecchio che lo sto sistemando, che non l'ha messo bene, dai. Ecco, adesso lo vedo bene, dai. Come mi ascolti con questo apparecchio? Guarda, 1, 2, 3, prova. Ah, guarda, per me forse è chiaro, perché quando dicevo ci sono le evidenze che aumentano e sono al massimo, quindi perfetto, dai. Cavalava. Ma c'è appunto che hanno fatto un nuovo modulo per la certificazione del coronavirus, dai. Io l'ho saputo, me l'ha detto 2 secondi fa, ma lo sapevo già, l'avevo sentito al televisore. E la comunque chi non ce l'ha se la biglia, cioè ce l'hanno loro in macchina. Ma mi comincia a preoccupare, mi comincia a dimenticare le cose, ma che fosse un evento di inizio di alzata, può anche darsi. Ogni tanto mi dimentico che sono sposato e vado in cerca di avventure. Mambo che boggo. Sto scherzando naturalmente, se non l'ho mai fatto e non c'entra 60 anni di metà fatto. E mai di levare la vita. Va bene, va bene. Ok, scherziamo. La gala. Hola. 1, 2, 3, prova. Molto ecco c'è. Cavo. Hola. Diciamo c'è un po' dietro, ma è anche piacevole, capito? Va bene, dai, sono contento che sia piacevole. Almeno uno me lo dice, già che mi dice, stacca l'ecco, no? Non c'è l'ecco che non va bene, non mi piace. No, così è ascoltabile. Certo, io personalmente preferisco senza eco per un mio modo personale, ma diciamo così va anche bene, capito? Attenzione, lupo grigio, cambi! Ma mi spiegate perché mettete l'eco? È una domanda che mi sono sempre chiesto, cambi. È un gusto che 100 malanni, a me piace. Vabbè, c'è un problema di gusto, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, giusto? No, a me mi è sempre piaciuto l'eco e infatti adesso l'ho tolto perché so che a tanta gente non piace, ma a me mi piace. Vabbè, volevo dire, io tempo fa dal mio poggiolo di casa, che sto al secondo piano, probabilmente c'era propagazione, sono riuscito a parlare con una barra pesante dal pieno. Me l'avevi detto, anche questa, cyber questo qua, me l'avevi già detto. Avanti Eugenio, attenzione Eugenio, dove sei? Cambio. Buona, va buona, va. Eugenio non risponde. Non c'è nessuno stasera, mentre prima, Hola. Io avevo la bandiera carica e non so come punto intervenire. Pagava. Eugenio, e questo schifo ti fa? Questo qua, no, questo non strappa perché mi sta ascoltando, vuol fare l'ascolto ed è perfetto. Gaba gaba, e con questo come ti sta arrivando oggi? Viene, va bene, 9.5. Radio com'è? È presente? Capito, capito. Sarà andato in tilt lo smitter, boh, perché Marco dice sempre che quello smitter non è giusto, che vuole il regolato, boh. Poi hai sentito il coronavirus, bisogna fare il nuovo modulo adesso, l'altro non vale più. E devi scrivere che non sei stato mai affetto da coronavirus, eccetera, eccetera, tutte queste cose qua. Adesso è tutto una cosa allucinante qua, ogni giorno cambiano cose, mi ho stampato, ho fatto stampare una ventina di moduli per averli pronti, adesso non vanno bene, ma si abbina le luci. No, mio figlio col cane esce, capito, bisogna che glielo dia quando esce, glielo do sempre, c'ha il documento appresso e quello lì. Non c'ho stampante, è diverso, mi aveva fatto una cortesia un amico, me l'aveva stampati lui, però se non va bene cosa vi dai a fare? Ma di lupo grigio. Sì, io ho una stampante, ma sto finendo la cartuccia, di stamping anche nero, e quella cartuccia dell'HP che si chiama maledetta, costa 30 euro, quasi quanto la stampante, cazzo. Ma infatti non conviene, buh, è un casino. Io lo stesso c'avevo l'HP, pagavo una barca di soldi in cartucce. Basta mettere quelle, non quelle originali, metti le altre, se le usi l'inchiostro non si secca, ma se non le usi si secca l'inchiostro, ti balla tutto. Ma il problema è che l'HP, maledetta che sia, non ha, non ha... l'H non l'hai provata come stampante? No, guarda, io mi sono fidato del rivenditore, mi ha proposto una sì. Più di altri fogli, lo ci metto su un open drive, vado in cartoleria e mi faccio stampare da vista. Ma vedete, si secca l'inchiostro e poi non funziona più la stampante, occhio. E vabbè, ma ripeto, io qualcosa la stampa, ad esempio mo devo stampare per domani, però poi vado a stampantino e lì mi faccio fare delle fotocopie del modulo impianto, così almeno mi faccio qualcosa. Ho capito. Fogli, tra fogli A4 e inchiostro, non so quanto convenga la stampante se non la usi molto. Non è così oggi? E poi si asciuga negli ugelli, non passa più l'inchiostro, si secca. Se non lo usi si secca. Io l'ho comprata quando mio figlio andava a scuola, lì tra ricerche, lettere, altre cose, la stampante ci voleva, ma ora adesso che è a punto di studiare la usiamo poco. E ho capito. Io già l'ho avuta, me ne sono rotte due e alla fine poi non ne ho comprato più, tanto l'uso che facevo, sai che cos'è, per stampare foto e basta. Io sono appassionato di fotografia e li usavo per le foto. Ma costa anche un bella carta fotografica, non conviene. Ma infatti non conviene, io prima l'ho fatto, stampavo le foto, ma non va bene, vado al PPC, via le Trento, che Pavarani, me ne campo, però accidenti anche a loro, no? Io ho portato una foto su pendrive, allora, 2 ore e 50 e l'apertura vai, cioè per cliccarci sopra, vogliono 2 ore e 50. Stampare la foto totale 3,50 per una foto, capito? Beh, non è tantissimo, se vai da un fotografo ti perde 10 euro minimo, 15. No, no, è il fotografo Pavarani, quello che c'è via le Trento. Ti ho portato la pendrive dove c'era una fotografia, no, da stampare. Allora, per fatto soltanto di cliccare sopra il file, loro lo chiamano apertura file, 2,50. Solo una volta, anche se sono 10 foto lo faccio una sola volta, però ripeto, una foto mi è costata 3,50 stampare proprio da un fotografo, che lo conosco, Pavarani è quello che mi ha filmato e fotografato il matrimonio e lo conosco benissimo, sia lui che la sorella. Vabbè, anch'io lo conosco perché ha fatto anche le comunioni di mio figlio, anzi sono stato io, perché ai capicini non si usava il fotografo ufficiale, praticamente ognuno si accavalcava, facevano un caos enorme. Io ho proposto il fotografo ufficiale, come quando ci facevamo una volta quando eravamo bambini noi, e ho proposto Pavarani, è venuto lui, tutti sono stati contenti, un bel servizio fotografico, quindi lo conosco bene. Il padre non me lo ricordo, io conosco lui e la sorella, tutti e due. Mi hanno fatto, ripeto, il servizio fotografico al matrimonio, sia fotografico che il filmino. Sì. No, io sono in gamba come ragazzi, a volare bene. Ce ne sono dei migliori, ma diciamo che per quelli che prendono poco e che prendono meno degli altri si possono chiamare, dai. L'album mi è venuto un bel po' di soldi, eh. Ma se non sbaglio, i fratelli sono due, dovrebbe essere due fratelli e una sorella, se non ricordo male, giusto? Conosco un fratello e una sorella, quelli che mi hanno fatto il servizio fotografico. Sono tutti e due molto carini come ragazzi. E poi la cosa anche bella che Pavarani sviluppa anche i vecchi rollini fotografici, che non lo fanno tutti. Io infatti sono paio di macchine fotografiche con il rullino, non la uso, ma se lo dovessi usare, lui ha i rullini e sviluppa pure. Io ci ho buttato una mamma mia che valeva un sacco di soldi, ce l'ho buttato al cassonetto funzionante, perché poi mi sono preso una Canon digitale e anche di quelle buone, professionale, la 6D, non so se la conosci, quella lì costa una marca di dinamica. No, non la conosco, però io conosco un signore, diciamo che quasi 80 anni, che insegnava cinematografia e fotografia, e anche da qua nella via mia, via di questo giorno rossa. E ogni tanto parliamo di come si facevano le fotografie, i rullini, eccetera, eccetera. Vabbè, ma come fotografia di adesso non penso che se ne intenda di tanto, a meno che si sia aggiornato. Avanti, Ugico. Stava parlando di fotografia, dai, che c'è un signore che abita nel suo palazzo che praticamente mi insegnava fotografia, questa roba qua, e ogni volta che si incontrano dice che parlano di come si sviluppava, eccetera eccetera. Io ho un amico, ho Lupo Grigio, che sviluppa tuttora, c'è la camera oscura, c'è il timer, c'è tutto quanto, e le fa, le sviluppa lui. Allora, guarda, il bianco e nero una volta ce l'hanno insegnato come si sviluppavano, il colore non lo so come si sviluppa, ma il bianco e nero me lo ricordo la procedura. Un attimino, oggi vi siete sovramodulati, cosa è detto? Va a vedere. Sì, 8:30. Considera che io ho cambiato anche apparecchio, magari da un apparecchio all'altro c'è differenza, boh. Considera anche quello, io adesso sto usando un altro apparecchio che era fermo da tanto tempo e lo sto facendo girare. Ma non è possibile, è nuovo con l'apparecchio, cosa le busto? Penso alla terra le busto. Farsi, non lo so, però non lo fa mai, io ho parecchi vecchi che può darsi che succeda, uno succede all'altro, cosa vuol dire? Cappa, dopo Grigio. Senti che sto ascoltando, sto ascoltando. E comunque il mondo della fotografia è una bella cosa, un po' costosa come oggi, vero? Sì, specialmente se compri macchine professionali, filtri e via dicendo. Io l'ho sempre fatta la fotografia da ragazzo, ho avuto sempre la passione, andavo a fotografare anche matrimoni eccetera, ma adesso un po' l'ho persa. Diciamo che una l'ho regalata a mia figlia, la macchina fotografica, e quella più costosa che ho comprato, la Canon, l'ho regalata lì adesso. E adesso sto fotografando solo col cellulare, non ce l'ho più la passione di prima. Sarà che cosa mi è successo? Stavo facendo un tema, praticamente c'era un concorso fotografico e dovevamo fare un tema particolare. Io avevo scelto le chiese bizantine, ho fatto chilometri per fare chiese murali, sono andato verso Bosa, poi un giorno le ho scaricate in una pennina queste fotografie, un giorno mio nipote guardando la pennina non so cosa ha toccato e mi ha perso tutte le fotografie, cazzo, dal giorno mi sono incazzato, non le ho voluto più sapere. Se fosse stato alle macchine vecchie avessi avuto le fotografie stampate e non sarebbero sfuggite da lì. Guarda, io però ti posso dire che comunque ci sono programmi anche grandi da punti che riesci a recuperare per poco. Io ce l'avevo uno e come funzionava, esistono questi programmi. Lo so. Allora ne abbiamo usato due di programmi, non apriva i, cioè apriva i file ma non c'era niente, capito? Erano butti. I file li trovava ma erano butti. Allora mi ha detto questo che fa questi lavori qua di portarmi il computer che me l'avrebbe trovato lui. Mi ha preso 50 euro e poi non ha trovato più un caffè, ha trovato fotografie che ce l'avevo già e non quelle che dicevo io. E gli ho regalato 50 euro così si capisce. Lo trovava il file, però il nome del file però non l'apriva, capito? Sì, l'ha cancellato per sbaglio, non so cosa ha combinato qua. Un incazzo, ho fatto chilometri cavolo per fare quelle fotografie, ho fatto tutte le chiese bizantine, ho fatto San Gavino, ho fatto Santa Maria, ho fatto Saccargia, poi sono andato ho fatto un nuraghe che c'è andando verso Bosa, che è perfetto, quel nuraghe non gli manca manco una petrolina, niente, è proprio tutto integro, c'è un bel viale, ho fatto tutto il viale, tutto quanto, poi l'ho ripreso in primo piano e devo proprio partecipare su internet a questa mostra fotografica, invece per non sta male, e da lì mi sono incazzato e non ho voluto più sapere. Ci avevo speso anche un bel soldi tra obiettivo e macchina, avevo speso sulle 1500 euro. Io avevo una reflex che è professionale, quelle che usano per matrimoni e cose, i fotografi. Anzi, non ce ne sono nemmeno così buone forse per i fotografi. E tu devi sapere che la Canon fa le macchine fotografiche, più è alto il numero e più scadenti sono. Se per dire la 60D è una macchina all'avanguardia proprio delle ultime uscite, è una delle migliori. Avevo uno di obiettivo, faceva 28-210 da grand'angolo a teleobiettivo, immaginate tu, da 28 a 210. Se si usava il telefonino per fare fotografie, tanto rimanere meno a testa, però se devi fare una cosa lontana che l'obiettivo ti serve, o se vuoi fare tipo offuscato attorno, il primo piano, la faccia di tua moglie, il fisico, la persona, dai, tutto quanto offuscato attorno ti serve l'obiettivo, capito? Ci sono tante cose, poi quella macchina lì faceva mille cose, ho fatto i cavalli a Porto Torre quando corrono in via mare, i cavalli, l'ho fatto uno passando, tac, l'ho bloccato, c'era questo tipo, mi ha detto, caspita che bella fotografia che ha fatto, proprio bloccato senza movimento, proprio bloccato. È bravissimo, sono scelta, scelta con la Mariana, ora ha cambiato perché ce l'aveva scelta con la Mariana lo stile. Cavallo, no, è bravissimo, è uno dei migliori a Sassari questo, sarà caro ma è bravo come fotografo, no, pensavo te l'avesse fatto in Montese. Un teleobiettivo l'avevo comprato da lui per l'altra macchina fotografica che avevo, non quella digitale ma la Mamiya, avevo pagato più l'obiettivo della macchina fotografica, ci credi, 350.000 lire. Le armi, ho capito, armi. Ma ne hai due di Arredeso, puoi fare la collezione oppure per stai tenendo perché ti piacevano quei due modelli, che modelli c'hai dell'Arredeso? Quella è bella, c'è anche il baracchino, ne ho visto una da Masala, c'aveva anche il baracchino, detto che fa solo ascolto quello che non parla, e lei qui che ce l'aveva nel casco, tutto qua dove il microfono per parlare, e mi sono avvicinato a vedere, ho detto ma cos'è il baracchino? Sì, il baracchino, però ci parlo un po' qui. C'aveva due antennone dietro, belle, e poi c'è quello che di mele che ce n'ha una bella grossa così di moto, non è un irrevedibile però. Dice che non gli piace partecipare ai motoraduni, a meno che adesso abbia cambiato idea. Dice che non partecipava mai. Una bella moto, è un bel grosso, chissà se ti ingaggi in alto guai. Vabbè, comunque è una bella moto. Beh, invece è una moto proprio da grandi viaggi, quelle comode. E vabbè, ognuno ha la sua di passione, anche le vedevi sono occultali, non sono cose che costano, eh. No, io ti avevo capito per le armi, che ti ho detto per le armi, mamma mia. Io ne ho due le sto vendendo, ma le vendo. Non le voglio più tenere, non me la fottino, tanto non le uso. Tria, addirittura. Oh, li ho visti a Portoferro, salivano sopra le rucce, poi senza scendersene dalla moto, si mettevano in piedi, giravano la ruota di dietro e riscendevano. Sempre in piedi, ma era uno spettacolo. E oggi, ma bisogna essere molto esperti per fare certe cose. Io ho visto che questi qua non se ne scendevano manco dalla moto, la impennavano, la giravano e scendevano giù di nuovo. Ma salivano in punta come niente, proprio sono molto arrampicata, diciamo, come può essere una macchina fuori strada. Là. Okay. E comunque anche io già le ho guidate le moto, ho guidato moto da cross, ho guidato moto grosse, ho guidato scooter. Ciao, sì, viaggio, un aggio avevo due euro e ne avevano gli amici miei. Io avevo un amico che aveva un Laverda 1000 che allora era uno dei più veloci che c'era. Avanti, lupo grigio. Sì, allora ti volevo dire che un mio amico ha fatto una tesi sulle chiese in campagna. E ti ha detto una cosa, che tutte le vecchie chiese in campagna a casa la vita c'è sempre una posta che risulta quando lei è No, io sono andato a fotografare quelle di campagna, ho fotografato chiese bizantine, dell'era bizantina, ma non in campagna. Chiese, tranne quella di Saccargia, vabbè, che rimane un po' fuori città, ma le altre erano in città. In ogni caso, quella di Santa Maria c'è la fontana, per dire. E poi, per curiosità, io non me ne intendo di altre, quali sono le altre chiese bizantine? Io ho fatto Santa Maria, quella di San Galvino, la chiesa di San Galvino, quella di Saccargia, che si appella la bizantina, e poi io ne avevo fatto due o tre, dai, quelle che conoscevo. Tutte le chiese di campagna hanno o avevano una fontana. E tutte le chiese che io non sapevo hanno la facciata principale, possibilmente se possibile, rivolta a est, dove non ci sono. Per questo non lo sapevo nemmeno io comunque. Non mi sono limitato a sapere queste cose particolari, io quello che facevo è particolari, per dire, della chiesa di San Galvino, tutti quei merletti che ci sono, tutte quelle lavorazioni, li ho fatti tutte in primo piano, ho fatto la chiesa tutta intera, l'ho fatta fotografata dal giardino, tutta quanta completa, con la piazza e tutto, l'ho fatta in diversi modi, dai. E già mi appentavo prima, adesso non aggiungo più gana. Avanti. EUG. Vabbè, comunque sono di era antica sempre. Pagappa. Ma San Gavino è bizantina. Chiesa di San Gavino è bizantina. Su internet a guardarlo, là. Buonasera a tutti. Ah, è Marco! Pagappa. Avanti Marco! Ciao a tutti, dai, sono entrato per un saluto che fra poco inizia a bruciare qualcosa sui fornelli per il pranzo. Hanno chiesto a me che io avevo due in storia dell'arte. Ho detto bizantino per dire chiese antiche, dai, a quelle era lì. Ciao Luca! In 48, sì. 96. Cara gara, ciao Marco, ciao Gianni, chi c'è pure? Città Proma. Allora ci siamo io, Marco, Lupo Grigio e Eugenio da Porto Torres. Vabbè, allora li sento, Marco sì, avanti Marco, ripeto. Ciao Lucarie, come va la detenzione? Per carità, guarda. Guarda, sto sperando di fare commissioni, tipo fare la spesa, comprare medicine, almeno metto la testa fuori casa. Permessino appresso, per evitare polemiche. E vabbè. Ciao Nicola, anche, scusate se non ho salutato, e Eugenio, dai. Vi devo proprio lasciare perché devo stare i fornelli, dai. Comunque vi ascolto. Vai Gianni. Marco, adesso non valgono più i vecchi moduli, l'hai sentito? Che bisogna fare nuovi moduli dove dichiari che non hai il coronavirus. Come faccio a sapere che non ho il coronavirus? Dovrei andare all'ospedale e fare il tampone, no? È uno scherzo, dimmi che è uno scherzo. No, se mi permetti, allora devi dichiarare che non sei in quarantena e che non hai avuto il coronavirus. Il cavolo, mi sono stampato poco fa 4 moduli di scorta, adesso non valgono più, porca miseria. E non posso scrivere e integrarlo nel foglio, no, probabilmente no. Va bene, sì, ancora non l'ho avuto, poi se sono portatore sano non si sa. E stanno cominciando a rompere un po' le scatole. A parte che le forze di polizia che ho visto avevano mascherine assolutamente inadeguate, proprio loro che dovrebbero averle. E purtroppo è sempre così, quando si tratta di avere dotazioni personale di polizia, eccetera, sempre sono sotto, non dico organico, già hai capito, no? Sempre sottodotati di dotazioni che dovrebbero essere, anzi, d'ufficio, sempre presenti e in abbondanza. Vai Nicola, dai, vi lascio, vado ai fornelli. Sì, comunque guarda, se vai nel sito di Fisca li devo scaricare, però il modello PDF non credo che sia editabile. Però se vai nel sito del Ministero, quello è il PDF che si può scrivere sopra, capito? Ah, no, ma tanto io lo stampo il PDF, poi lo compilo a penna nel caso. Ciao Gigi, ciao, siamo qua. Oh Luca, riprendi. Un grigio. Sì, sono qui. Io però vorrei capire se Luca riesce a copiarmi, cambio. Ma non risponde, deve se si è allontanato. Ah, ho capito. Comunque, nel sito del Ministero degli Interni c'è un PDF e quello si può stampare, si può scrivere sopra. Ma conviene, come ha detto Marco, stampare i modelli, stampare un modello vuoto, andare al primo da bancario e farne una decina di copie, se non di più. Qui, dove abito io, stanno tutti mettendo musica al foggio. Alle 6 comincia. Sono già passate, se non sbaglio, le 6. Io non lo voglio, ma dovrebbero già essere passate. Mi sono le 6:15, hai ragione. Io ieri ho cantato, ma oggi non ne ho voluto. Vabbè. di cantare. Infatti dovrebbe piacere invece di cantare, o no? Canta che ti passa la paura, canta che la vita è meno dura. Dai, cantami Rose Rosse. Scusate, se mi mettete su pizza lì, ho visto una cosa da una chiesa là di Bergamo, Brescia, adesso non mi ricordo bene, dentro la chiesa piena di padri, che ne saranno state una cinquantina di persone morte. Bisogna essere positivi, bisogna guardare avanti, lupo grigio, se guardi queste cose ti viene solo paranoia e basta. Devi cercare di scaricare, canta anche tu che ti fa bene. Se sapessi cantare volentieri, ma io non sono negativo, sono reale. Senti, questo sono sempre stato così, ho sempre visto la realtà delle cose. Non sono né positivo né negativo. Sono cose che sanno tutti quelle, capito? Poi si cerca sempre di andare avanti, di lottare e di farcela tutti insieme. Ecco cosa si cerca di fare. Purtroppo non si sa che cosa sia, dice che stanno sbarcando anche carri armati di americani, non so cosa, tutti sono combinati. C'è l'esercitazione NATO, mi pare, poi chiedo a Nicola conferma. La più grande da 25 anni a questa parte, Nicola ti risulta? No, guarda, veramente è la prima volta che sento qualcosa del genere. Ma mi sembra strano che la fanno in questo periodo. Mi sembra proprio strano, sai? Io a parole mie mi puzza molto, caso strano, virus, pandemia, esercitazione, ma qualcuno posso? No, far cadere la Russia. No, qualcuno, sai, diceva, io riporto quello che ho sentito, qualcuno ha affermato che ne so, la Russia, che non sono stinchi di santo comunque, non lo sono mai stati. Vedendo l'Europa in difficoltà possa azzardare un qualcosa. E allora roba di 20.000 marines, mezzi pesanti, secondo me tutti dislocati in zona di confine con l'ex Unione Sovietica. Vabbè, boh. Tanto è sempre peggio di quanto non immagini, capito? A noi non dicono niente. Noi non siamo cittadini, siamo sudditi, capito? Non siamo tenuti a sapere niente. Comunque ecco il modulo. Sì, allora c'è una voce aggiunta di non essere sottoposto alla misura di quarantena. Quarantena presumo gente che è stata a Milano, gente che ha malati in famiglia, eccetera, eccetera. Per il resto devi mettere la motivazione e specificare, tipo sono uscito a comprare medicine, sono andato per la spesa, tu lì. Va bene. Poi tanto per le fotocopie non c'è problema perché... come dire, me le faccio con la stampante direttamente, che fa da fotocopiatrice, o comunque stampi più copie e fatta lì. Dai, vi devo lasciare, devo andare ai fornelli, dai, vai Gianni. Cosa vado? Non so chi ci sia, Luca ci sei, prendi un po' lì. Ma tu che fai sparito? Io volevo capire se ti diceva. Ma tu quel caso sai da meno male da che quartiere modula, capi? Con Antennino da Santa Maria di Pisa. Ho capito, vabbè, io lo copiamo benissimo. Comunque, Marco, guarda, ti conviene le copie palle dal passato, per un motivo solo. È che se poi ti dice la cartuccia di stampa, della copia che sta venendo a me, e i negozi sono chiusi, a meno che non vai al supermercato o in questi ipermercati, capito? Nico, ti dirò che il tabacchino qua è chiuso. Il tabacchino che qua c'è a quello di Viale Trento. Stamattina era chiuso, stasera era chiuso, ma è chiuso dai primi giorni delle avvisaglie, lo sai, chiuso. O hanno avuto qualcosa in famiglia che non stanno bene loro. Nome e cognome. Chi è? Ah no, Ponte Cisa. Chiuso, chiuso. Infatti devo prendere affrancature per lettera, e se no ci devo uscire in Piazza d'Italia, sempre che sia aperto, però preferisco, tanto il modulo non è che ti controllano ogni volta che esci, perché la data la devono mettere loro, ora è data del controllo e poi la firma dell'operatore di polizia. Ma non capita, cioè io ho il market a 100 metri, la farmacia a 200 metri, non è che poi ti vedono con le buste, sai, non è che stai bighellonando. Va bene, dai, Gianni, già entrerà qualcuno, spero. Tanto mi sono tutti a casa, dove vanno? Dove cavolo vanno? Scusa, un attimo Marco, scusami se sei di solo. Ma sei sicuro che la data la devono mettere loro? Perché io nel modulo, almeno la data la scrivevo io, capito? Eppure c'è scritto data e ora del controllo, che io ricordi, adesso l'ho messa oggi la giacca e l'ho messa via. Data e ora del controllo, quindi bisogna firmare solo il dichiarante, però data e ora del controllo è nel caso che facciano il controllo. E poi c'è, come dire, la voce che riguarda l'agente di polizia che firma o il timbro che devono mettere. Sì, va bene, allora per ogni evenienza io al limite domani faccio una telefonata o ai vigili o in questura per vedere un po'. Va bene, grazie, buona cucinata Marco, a dopo. Comunque vabbè, giustamente se ti vedono anche che le buste spesa, insomma, ma quando vedono gente bigalonando, tipo in gruppo, in greffetta, che passeggiano in piazza e si fanno le vasche, lì comincia a essere sporca. Ma sai cosa hanno fatto a Napoli? A Napoli sono andati in un giardino pubblico e si sono fatti il picnic, erano in 12. E hanno motivato che erano da 5 giorni chiusi in casa e non ne potevano più, ovviamente denunciati. Oppure due che da Porto Torres hanno detto che erano venuti a Sassari a farti la spesa, e denunciati anche quelli. È come se io andassi a farmi la spesa a Porto Torres, che non è, è una scusa che non regge, dai. E tu non hai sentito quelli di Sassari Vecchio che hanno messo il tavolino in mezzo strada e stavano facendo il picnic in mezzo strada, chiacchierando, ridendo e facendo, sono arrivati i vigili e hanno fatto smantellare tutto il gang. Sì, sì, l'ho letto, mi pare ho saputo. Sì, ma così da scemi. Cioè, farsi beccare, prendere una denuncia penale proprio per fare gli scemi, vabbè che magari, tu mi dirai, magari sono pluripregiudicati, denuncia più, denuncia meno, c'hanno la collezione. Praticamente, a seconda di che personaggi sono, con le pratiche che hanno, ci reggono il soffitto in questura. Capito? Con la pila di pratiche, ci reggono il soffitto. Ehi vabbè, oh, yeah. Adesso di nuovo i moduli nuovi bisogna fare, un casino. Ma si può andare all'ufficio postale, ne sapete niente? Sì, all'ufficio postale sì. È arrivata da poco la, come si chiama? Mi ha raccomandata e ho mandato un amico, l'ho fatto la delega. È andato a ritirarmi un amico. No, perché io dovrei fare un po' di conti correnti, ma non so neanche se le tasse sono bloccate. Però è arrivato il fotocorrente di mio figlio che è iscritto all'ordine dei beni industriali. Anche se non esercita, perché lui lavora a me, non esercita, è iscritto. E questo costa 180 euro l'anno. Ah Nicola, guarda che scemo io, e c'è anche sul modulo nuovo, c'è scritto data, ora e luogo del controllo, quindi quello lo deve fare l'operatore di polizia. E a destra l'operatore di polizia che deve firmare o timbrare, tu lì là. Va bene, stampiamo anche questo, però se cominciano ogni 3 giorni a cambiare modulo, comincia a essere seccante, dai. Vabbè, la cartuccia al nero è piena per ora. Vai Gianni, non riesco a staccarmi dalla radio, si vede che ho bisogno di parlare, porca miseria. Tutti morti. Rimango un attimo il questo di Rix che sto rispondendo a una persona, là. Ok. Luca, qui di cola lupo grigio, Luca, qui di cola lupo grigio, se ci sei fatto un colpo, cazzo. Comunque a me questi silenzi improvvisi mi preoccupano. Sai cos'è? Forse è un po' presto, Nico. Oddio, 6:25, non prestissimo. Poi per le poste, una teoria mia, potrebbero aprire solo la mattina, è un'ipotesi che faccio, perché ho visto che i pochi che stanno aprendo di esercenti, anche le banche solo mattina, niente più pomeriggio, almeno la mia, quella di mamma, quindi meglio farlo la mattina, cioè se aprono la mattina più probabilmente. Ok, vabbè, io comunque devo andare, non rispondo, già entrerà qualcuno, ok? Ciao Nico, a dopo, ciao. Ciao Marco, cucina sotto un po' grigio. Già, sto riprendendo, stavo rispondendo a un'amica che mi ha scritto su internet. Bene, bene, bene. Sei in sicuramento o sono libero? Poveracci le donne, no? Sono libero come un fiore. Appiggione dei Sidruk, mi aspetta che mi ha risposto. No, è stata la fa, via, ci sentiamo dopo. Luca, mi copia a me interrogativo. Vado a lavarsi Luca, che deve uscire. Ma chiedegli un attimo se mi copia, allora va nella discoteca, ci vieni. Calma, per andare da Marina a Foglio stai facendo. Foglio ce l'ho per fare come se mia mamma, certo. Mica ha cambiato il modulo, adesso non vale più quello che c'era. Devi dichiarare che praticamente sei in quarantena e che non hai avuto coronavirus. Quello io devo dichiarare, non l'ho avuto, mai avuto. Ma tu il modello nuovo c'hai? Faccio il modello, è trovato, aspetta. Che se c'è quello nuovo non conto, se c'è quello che c'ho io non vale più. Ma è trovato su WhatsApp già. Qua dice che il viaggio è determinato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza. Questo è quello vecchio, quello che c'ho anch'io. Tu devi scaricare quello dove c'è scritto che sei in quarantena e che praticamente non hai avuto mai coronavirus. Ma sei in quarantena, cioè va a far napo. Giuseppe su WhatsApp lo stesso. Che è uguale a quello mio. Lavoro presso, sto rientrando al mio domicilio, sito in Belgio, effettuare una visita medica, altri motivi particolari, eccetera. Accanto qua volevo dire che andavo, quello di Giuseppe. Ciao Cla. Ma cioè, ci sono due casi, mi ha detto mio genero, lì alla Peloce. Siamo rosso, anche noi. Scusi, mi stava dicendo Agnolino, dice che ci sono due casi lì alla Peloce. Guardami il tuo Gianni, ce l'hai tu? È uguale a quello che mi hai mandato tu. Ah, non c'è il nuovo? No, non ce l'ho, no. Allora è al televisore. Gianni, ho visto che mi ha chiamato, c'è col telefono basso, mi ha avuto un mito. Qualcosa volevi? Niente, fregate. Ho immaginato che fosse addormentato, infatti non ho insistito. Oh, yeah. No, ti devo chiedere una cosa, ma poi lascia perdere. Sì, già se lui ti chiama, non c'è problema. No, l'ho basso. Allora ripeto già, perché iniziano a chiamare queste cacchio di call center, vale poi, verrà capito. E quindi l'ho abbasso. Ero un po' sdraiato, mezzo drummito. Non lo sento quando è, però poi quando lo prendo visto c'è la tua chiamata. Se vuoi ti richiamo, non ci sono problemi. Oh, arrivo subito. Chiamo, via. Aspetta. Tutti al telefono. Qua stanno mettendo bandiere italiane, bandiere arcobaleno, tanto per drammatizzare, no, ma tutta roba che nasce sui social poi lì, questi flash mob, questo di cantare, io non ne seguo queste cose di social, sì, lo fanno per drammatizzare però, ok. Certo, ne devi essere orgoglioso, la devi appendere. No, chi si azzarda? Perché dovrebbero? C'era una portante multa, qualcuno non sta uscendo? Natalino, tu sei? No, era sopra di te. Qualcuno ha premuto, via. Adesso me la guardo su internet, com'è la bandiera della Trinacria? Chi è? No. la conoscevo, quella con quel viso di... non so se sia una donna o un angelo, perché ha le luci laterali e ha la gamba piegata. Sì, sì, sì, la conoscevo. Credevo fosse un'altra ulteriore. Sì, esatto, tre gambe messe a 120 gradi, no? E un colore praticamente in diagonale, divisa metà rossa, metà gialla, giusto? Via. Ma ci pensi che l'Italia ha la forma dello stivale, eh? Invece di tante nazioni informi, no? Senza una forma definita, l'Italia ha la forma dello stivale, con tanto di sperone dietro pure. Luca, ci sei? Lugariello? Oh, io oggi sono tutti depressi. Come ho detto ieri a una persona scherzando, io, vabbè, blandamente depresso, ho detto adesso vado dal medico, mi faccio fare la certificato medico che ho bisogno di uscire e me ne vado a passeggiare a Platamona quando c'è il sole. Radio 5. No, Santiago arriva fino a 9, poi inizi 9 più 5 dB, più 10 dB, fino a 9 più 30 di solito per i baracchini, e gli HF hanno fino al 9 più 60, 9 più 60 dB, raramente anche 9 più 80, ma non so se si usi più quella, quel fondo scala lì, mi capito Nico? Praticamente 9 più 5 c'è la stessa differenza che tra, in grosso modo, tra l'8 e il 9, tra il 7 e l'8, eccetera. Però fino al 9, fino a Santiago 9 mi pare, ogni Santiago è 6 dB, 6 decibel. Poi ogni tanto su internet qualcuno cambia, dice che sono 3, dice che sono 5. K, K, K. Premi, portante muzza. Allora, ora come ora, 9 più 10, 9 più 10. Radio buona, siamo 4, perché tu hai un segnale forte, magari posso andare con 4, per dire. Chi si è affacciato, coso? Franco, tu sei. Ecco, a me non è così forte, cioè, l'ho coperto io. No, sai cos'è? Lui è vicino a me, ma è con un antennino, è un portatile, capito Fra? Ma tu lo senti lui? No, negativo, niente. Sì, tu sei 8 e mezzo, 8 e tre quarti, prossimo al 9 circa, dai. Però sentivo sotto la voce tua. Comunque Nicola, grosso modo per dare la radio, no? Poi che la dia per la tindica o che tu la dia per diciamo l'intelligibilità, per un segnale basso, no? Basso è più fruscio, più o meno dal 5 all'1 tipo ottimo, buono, passabile, scadente pessimo, 5 ottimo, 1 pessimo, 1 vuol dire anche non intelligibile, non comprensibile. Sai cos'è Nico? Per fare una prova tangibile dovresti essere in un punto comunque, cioè dovresti tenere il portatile immobile, tipo legarlo a un paletto di legno, cioè tenerlo immobile al millimetro in un punto e sostituire semplicemente l'antenna e chiedere il controllo con le due antenne, però tenendo la mano libera, sai come oscilla, anche basta un minimo che il segnale varia. Capito Nico? Infatti quello è una prova che volevo fare io con altri apparati sempre portati, tenerlo fisso, legato a elastico, a un paletto, qualcosa non metallico naturalmente, o anche metallico, tanto, in modo da tenerlo immobile e sostituire l'antenna e chiedere il controllo. Naturalmente se lo fai in terrazzo è meglio, che poi non è cambia, dentro casa in terrazzo, ma per evitare riflessioni stazionarie, no? Quando è troppo chiusa l'antenna. Ma Nicola, mi senti a me? Chi era sotto, avanti? Ha detto, dimmi se mi senti a me. Nicola, copi Franco da Sorso. Allora Nico, ma Franco, sì, praticamente nel QRM, non capibile, a livello di zero, diciamo, dai. Anche uggiosa la giornata, coperta. Capito Fra? E a malapena arriva Sassari, mi arriva agli altri, io, vabbè, lui Principe Saiolan, lei qui a Nizza, sono vicino. Ecco, dimmi che se ne va a Tocca Rosello, lo sentivo l'altra volta. Caspita, lì sì perché c'hai due latti belli aperti. Oppure gli abbiamo consigliato, vabbè, per quando passerà questo casino, antenna veicolare, così può uscire in macchina, andare in zone alte. Per esempio, fra io, quando non avevo antenna in casa, uscivo apposta in macchina col baracchino per modulare, andavo tipo a San Francesco, dopo via Grazia Deledda, no, dritto lì, c'è quella salitina con quelle scaline, quello è un ottimo punto, ed è anche abbastanza vicino a casa, per dire. Poi vabbè, ho messo l'antenna sul tetto, non sono più andato. Sì. Io quando non ce l'avevo l'antenna su a casa parecchi tanti anni fa, e prima di piazzarmi l'antenna in casa, con la macchina salivo lì alla circolazione dei signori, su, da lì prendevo, dove c'è cosa, la discarica, c'era una volta, la discarica della Mondetta, da lì Sassari, Alghero, Bugliano, Iulia, una forte. Eia, vediamo Nicola se ha cambiato antenna. Sì, ho cambiato antenna, hai notato qualche miglioramento interrogativo? E cavolo, 9 più 20, cioè da 9 più 10, guarda, se hai mantenuto grosso modo la stessa posizione del portatile, si è passato da 9 più 10 a 9 più 20. Sì, praticamente sono qui, ma Franco probabilmente non mi dice le cambi. No, non ha risposto, allora non ti sente Franco. Ma ascolta, ma allora tu adesso stai usando quale antenna? Quella in gomma o quella telescopica? No, allora attenzione, facciamo un po' di precisazione. L'apparato standard esce con un antennino di 20 cm che io produco. Poi contemporaneamente ho acquistato un'antenna telescopica da una ditta e un'antenna in gomma della Midland che è stato esclusivamente per questo apparato, perché con questo che ti sto parlando adesso. Ecco, quindi sì, questa nettamente meglio. Tu stai usando la Flex, poi c'è marcata Intec, Albrecht, Midland, grosso modo è sempre quella. Eh sì, caspita, se c'è la differenza, da 9 più 10 a 9 più 20, anche così un controllo, poi se tieni il portatile bene o male alla stessa posizione già si vede la differenza, sì. In distanza si nota secondo me ancora di più, ecco. Quindi ripeto, cioè, ripilogando, l'antenna che non va bene è quella telescopica che avevi preso nel famoso negozio di occhiali che avevo visto anch'io, che però sicuramente avrà un mare di stazionarie, perché loro ti dicono che è per la 27, no? E cioè magari è per la 27, però risuona male. Guarda, succede anche con i portatili di altre bande. Adesso ti faccio un esempio. Un apparecchio X, no? La sua antenna di stazionaria è sotto il 2, l'antennino di serie di gomma, sotto il 2, tipo 1,8, quindi usabilissimo. Ho messo un'antenna che ho comprato anni fa, più lunga, leggermente più lunga, della Intec, è controllata con lo strumento apposito, non è professionale lo strumento, tutto quello che vuoi, ma aveva 9 di stazionarie, non 1,9, ma 9 di stazionarie, quasi 10. E finalmente ho capito perché questo antennino, quando lo mettevo sul portatile, andava molto male, ricevevo più male e mi sentivano tutti più basso. è misurato a 9 di stazionari, naturalmente è misurato con strumentazione assolutamente non professionale, però è inutilizzabile come antenna, quindi copiato? È copiato, copiato sì. Poi guarda, su Amazon io non sono registrato, ma questo è niente che ci registro, ho trovato un'antenna di quella Nasco che si piega tipo un Nasco metallico di 1,82 m credo, solo che proviene dalla Cina e io non so, ho paura, vabbè, costa poco, non è che costa molto, ma non vorrei che pago con la Postepay e poi non mi dovesse arrivare per questo problema del video. Oh guarda, allora tutti i pacchi ordinati dalla Cina sono arrivati, tranne uno, però credo che sia stato perso dalle poste, ne è arrivato in Italia ma è stato perso dalle poste perché ho il tracciamento. Arrivano tutti, non ho mai perso un pacco tranne quest'ultimo, me ne è arrivato uno oggi, era stato ordinato alcuni giorni fa, è un antennino con un kit radiali. Nico, per fartela breve, adesso poi vediamo se è rientrato Gianni, rilanciamo Franco, io vado a mangiare poi. Dicevo, questo antennino qua che ha 9 di stazionari, era dichiarato per quella frequenza che dovevo utilizzare, no? Uno dice la prende per buona, invece andava male, sono riuscito a misurarlo con un aggeggio apposito, che poi è un rosmetro, però diciamo, non ti dico i particolari tecnici, diciamo, va bene anche per misurare antennini. Risultato completamente non risonante, ma il bello è che non risuona da nessuna parte della banda che dovrebbe coprire, capito? Non risuona proprio, una schifezza, ovviamente marcata Intec, non avevo dubbi. Detto ciò io scappo. Gianni sei entrato, Franco ci sei ancora, dai, riprendete voi, io devo mangiare e poi fare altre cose. Ciao Nicola, nel caso a domani, o a dopo, ciao. Ciao Marco. Mi devo allontanare anche una fila, mi devo allontanare. Sentiamo, intanto a Nicola non lo so. Sentiamo, vai, ciao. Ciao Nicola, anche se mi senti tu. Ehi, ciao Nicola. Gianfra, tu sì? Sì, ciao a tutti. Ehi, adesso per farla breve, no? Io ho un rosmetro V1, era tutto di plastica, e se andavo a sentare poi agli attacchi dietro, non veniva bene misurare gli antennini, no? Invece quel famoso Shurecom, tutto di alluminio, display digitale, ha un attacco a destra e a sinistra, cioè lo puoi mettere infilato tra il portatile e l'antennino e lì vedi le sorprese più disparate, però quell'antenna Intec che doveva essere per PMR non risuona da nessuna parte, né sopra né sotto, proprio una schifezza per dire. E quello è tutto in alluminio, quello non ha rientri strani, perciò ho potuto misurarlo. Poi, naturalmente è sempre un giocattolo, non ero professionale, ma un'idea me la sono fatta. Dai, ciao, vado a mangiare. Sì, guarda, proprio per le antenne noi parliamo. Io mi sto costruendo quella dalla macchina, perché quella che c'era, c'era sempre stazionaria, sempre l'ho smontata, fatta a pezzi, non si regolano neanche. Tutta quella serie di quel cavolo, l'antenna, sta veramente, la costruisco io, faccio un film. Buonasera anche a Nicola, oggi c'è un po' segnale, se non ho visto male. Sì, Gianfranco, come mi dicevi, interrogativo? Una bomba, 9+20 guarda. Allora sì, non mi riesco a interrarlo. Sì, sono interrato, altrimenti dal quel giorno non parlo con nessuno, acqua, c'è da dire. Mettiti una tendina, una cosa discreta, un dipoletto, un pezzo di filo, te lo porti a casa, se non sei a un piano troppo basso, che ti dicono cosa, dicono antenna TV, che ti sia abbassata, cosa vuota, sei allora, guarda Gianfranco, per fortuna il primo che mi chiama molto, perché io abito praticamente al secondo piano, sono parlato di un piano e sono tutto pieno di palazzi, io vedo solo palazzi dal mio punto. Quindi secondo me anche se ha messo una boomerang di 3 metri non funzionerà. Guarda, preferisco adesso salire in terrazzo, ma mi riservo di comprare una veicolare, me la metto di quella con base magnetica, me ne vado a San Francesco a Piazza Le Segni e da lì possiamo parlare tranquillamente, capo. Vabbè, ma così è scomodo. Così è scomodo, capisco, meglio che ti metti qualcosa di più, di più tranquillo, ecco, perché sennò quando piove, quando fa tempo brutto, è triste la cosa, quello va bene d'estate e in primavera. Lo so, ma io però adesso col condominio non ci voglio avere niente a che fare, ma proprio zero. Ma per adesso assolutamente non ci voglio avere nulla che fare. Comunque se piove mi metto in macchina e mi metto l'antenna a fase magnetica e così parliamo lo stesso. Sì, c'era qualcuno con la pantalla? Non ero io, Ah, Gianfranco, comunque Shurecom SW102, quello con i pulsantini, uno rosso, uno giallo, uno blu. Quello lì. Che ti segna anche la frequenza, la potenza riflessa diretta, la percentuale di potenza trasmessa, la percentuale di potenza persa. Proprio un giocattolo. Dai, riprendete, sto mangiando. Gianfra, ma mi confermi che sei a Latte Dolce, interrogativo? No, assolutamente. Abitavo prima a Latte Dolce tanti anni fa, ma adesso sono dall'altra parte, sono fuori strada, e ho più che sia stata. C'è presente la stazione di Molafà, dove passa il treno, dove ci sono i passaggi alle 12. Sì, ti confermo, quindi comunque già che riusciamo a parlarci, poi io con un portatile è anche molto secondo me. Però io sono in alto, poi non è che sia alla stessa stazione, se non è che mi sentissi, no, sono molto in alto, diciamo, sono in quella zona e su una specie di collinetta, quindi vedo Sassari di vista ottica, tutta Sassari, tutti i palazzi di Sassari, se avessi un binocolo abbastanza potente, ce l'ho, però sto puntando un problema, probabilmente ti vedi sul terrazzo con portatile. Ma poi ormai qui praticamente alle 18 si affacciano tutti i palazzi accanto, cantano e mi guardano tutti, dicono, ma questo che cosa vuole? Mi auguro che cantino a un'orario decente, che non cantino diciamo a mezzanotte, a 9 del mattino, se no sarebbero peggio dei gatti che mi amano. No, alle 18 precise mettono la radio fuori ad alto volume e cantano anche canzoni simpatiche, canzoni degli anni 70, roba del genere. Domanda per Nicola. Nicola, stavi chiedendo di quelle antenne a nastro cinesi, secondo me sono quelle copie della ABRI. E il poco che ho letto è che se proprio la vuoi compra ABRI originale, non comprare le copie cinesi, ne ho letto di cotte e di crude. Certe sono delle schifezze, certe coppie, sono quasi tutte coppie. Gianfra, dì qualcosa, se sai qualcosa di più. Ma io ho il parere di comprare un'antenna semplice, la più semplice possibile, tanto se va su queste antenne un po' complicate, sono un disastro. Poi con le cinesi spesso non sono parate, o risentono di qualche difetto, eccetera, sai. Le cose buone costano un po' care, purtroppo, e spesso anche se le paghi care non funzionano lo stesso. Quindi, guarda, per due io vedrei bene, anche in terrazzino, una te le ricordi le boomerang, quelle che c'erano da Dianino, che è stata tra l'altro la mia prima antenna. Il terrazzino non darebbe fastidio a nessuno, perché ci sono anche quelle un po' corte, sicuramente renderebbe, diciamo, non dico il doppio, ma una volta e mezzo più importante. Marco, scusami se interrompo. Io facendo una ricerca su internet ho trovato solo questo. Poi al limite ora non ho carte stella, magari per la prossima volta se mi dai un input dove vi posso trovare quell'antenna che dicevi tu originale, capito? Quello Nicò non te lo so dire, io so che sì, lei è scritto Abre 2B e 2R, o 2E voglio dire, Abre, non so se si pronuncia, Abre, antenna a nastro. Ho visto i siti cinesi, ce n'è di tutte le lunghezze, però ho letto peste e corna, proprio che non risuonano, che rendono poco, carichi fittizi. L'originale non so se sia roba americana, io proprio non, di quelle antenne non so nulla, dico, non posso mettere parola. Ecco perché ho chiesto a Gianfranco se le conosce. Sono anche belle grossolane, grosse come antenne a nastro. Vai Gianfranco. Sì, di antenne a nastro io conosco quelle militari più che altro. Tra l'altro funziona anche il 27 perché la mano militare va dai 26 a 79, 80 MHz. E niente, quella che ho io militare invece dalla mia radio praticamente è alta 2 metri ed è una cannonata, è veramente una cosa formidabile, però è in un materiale tipo vetroresina. Anzi no, scusate, non è vetroresina, c'è tanto poco, è in ottone, non bucato. Dentro c'è uno spago, tu tiri lo spago, ti fai tipo questi canna da pesca, no? Non so se vi ricordate questi canna da pesca, tiri lo spago e si uniscono tutti gli incastri, diciamo, dall'antenna, è tipo, ed è flessibilissimo ovviamente, ed è militare, proprio originale della razza, una marca che non vi so dire neanche a... Guardate, le antenne che andrebbero bene per da casa, da balcone, e c'è la serie Sirio abbastanza carina, non so neanche di cosa, una di una un tubo e basta, con la Thunder 27 ha fatto ronda, costa da Amazon 43 euro praticamente. Poi c'è la famosa Boomerang, sempre un quarto d'onda, quella ne costa abbastanza cara, 53, però insomma penso che sia molto meglio importarsi. Eia, guarda, a me piaceva molto la Boomerang Sirio, quella con lo stilo in alluminio, perché c'è la versione A e la versione W, una delle due è lo stilo il radiatore in alluminio, l'altra c'è la fibra in vetro, no? È anche leggermente più lunga quella in alluminio, confido che l'altra è più caricato lo stile, confido meglio in quella in alluminio. Sì, se la fanno pagare abbastanza per essere una Boomerang, però sembra fatta bene, da chi ce l'ha avuta è rimasto soddisfatto. Invece le mini Boomerang, quelle tutte caricate, radiale caricato e stilo caricato, no? Ce l'ho della Lem buttata, è una schifezza, tiene pochissimi canali, gli hanno fatto anche uno stubo di taratura troppo lungo, quindi andrebbe tagliato pure per accordare. Buonasera. Ciao Gianni, ti rilancio Gianfranco, vai. Sì, buonasera Gianni, ben ascoltato. Come andrebbe bene, ma la base magnetica per la macchina quasi vero, anche dalla Germania, che si è apparato, dovrebbe essere omologato, anche sì, anzi sicuramente omologato, costa anche poco, 100 euro praticamente, ti danno l'antenna con base magnetica e l'apparato CD, quindi. Poi c'è anche un altro che secondo me mi sembra lo stesso, l'antenna diversa, che ne costa addirittura 80, costano più un'antenna che l'apparato veicolare. Nicola, ti volevo chiedere, poi fare girare per Gianni, ma l'apparecchio veicolare non te lo sei preso, anche perché costano, ripeto, pochissimo. No, ancora perché quando c'è il coronavirus poi la macchina non è mia, è di mia moglie, quindi dovrei un attimo tassare il suo posto, perché comunque è installato qualche piccolo lavoretto che voglia farlo, giusto? No, non credo. La magnetica la c'è un panno sotto, l'importante è che ci sia il feltro sotto che protegge la carrozzeria, si attacca con questo magnete molto potente alla capotta, basta, finisce tutto il carro dentro, poi passare nello sportello, tanto non succede niente. Colleghi, la radio la accendi i sigari, se tutti puoi fare una cosa così veloce, o la presa adesso non ne hanno più, accendi i sigari, sono le prese a 12 volte direttamente. E basta, dopodiché colleghi il PM e parli. Tutto lì, non è abbastanza veloce, rapida, in 4-5 minuti la tolto di tutto e in 4-5 minuti rinstallo. Che lo può usare anche a casa, che comunque è sempre meglio un po' tattile, a parte il discorso della batteria. Avanti Gianni, riprendi. Ehi, buonasera Gianfranco, buonasera Marco e buonasera Nicola. Io ne stavo approfittando a levare un po' di polvere dal PC fisso, l'avventura della CPU che era insomma da pulire, sistemare. Adesso stavo provando un disco, ho acceso la radio e ho sentito il QSO, insomma, e niente, quindi se vuole garanzie Nicola sulla boomerang, io ho la boomerang 3 metri ed è una bomba, quindi ce n'è, come si dice qua a Sassari, ce n'è per i porci. No, ma dicevo che io abito al secondo piano, un palazzo di 5 piani più tenacino, e non so se è montata nel fogliolo rende o no, capito? Beh, sicuramente molto di più di quella che c'è in dotazione, quella tra virgolette montata sull'apparato. Quello è poco ma sicuro, come stava dicendo Gianfranco, cioè puoi solo migliorare, non peggiorare. Ho capito, va bene, io mo adesso quando finisce questo intrusso maledetto, come ho detto prima, dove il mio apparato è predisposto per mettere l'antenna magnetica, infatti se controllate anche su internet ha la batteria di Limetor con il connettore PL, dove si collega diciamo l'antenna veicolare, c'ha anche la spina per l'accendino della macchina, quindi praticamente può essere utilizzato addirittura anche con l'antenna, quindi vorrei provare un'antenna magnetica con il portatile per adesso. Guarda, ribadisco il concetto, sicuramente ne gioverai tantissimo del fatto di montare, sicuramente Gianfranco ti può dare conferma, anzi sicuramente è molto più preparato di me al riguardo, lui ti può dare conferma sul fatto dei benefici che può avere anche nel montare un'antenna, ti ripeto, come quella che ho io, che è una boomerang da 3 metri, della LEM, credo, che mi funziona benissimo, per cui secondo me, guarda, più che altro è, ti ripeto, dal punto di vista logistico, cioè c'è una staffetta da avvitare con due bulloni da 10 alla ringhiera del terrazzo, ovviamente, poi se hai altri posti dove ancorarla, ma penso che non sia un problema, quindi è tutto molto semplice. Sì, questo sì. Sentite, io farò adesso, siccome sono qui dalle 5:30 dopo il terrazzo, e comincia a sentire un leggerissimo frescolino, vi chiedo scusa e mi ritiro le mie alloggi per sentirci domani, capito? Sì, riprendo io, ok Nico, beh ti capisco perché anch'io quando vado fuori qua ce l'ho poco fa riparando una telecamera e cioè, insomma si sente. Comunque ripeto, io ti consiglio questa antenna che tra l'altro puoi vedere su Amazon, è della Siria, una casa Siria, faceva anche all'epoca le antenne per le vostre macchine, se ben ti ricordi, quindi te lo consiglio, diciamo così, dai. Perché niente, se lo metti in terrazzino, se poi grande il terrazzino lo puoi mettere anche quasi all'interno, quindi proprio non si vede neanche che c'è una tenda. E vai almeno per ascoltare, dai, così ascolti i libri e tutto lì. Ciao Nicola, buona serata. Allora, se stai scendendo, buona cena, perché tra poco sono già le 7:10. Riprendi Gianni per i saluti a Nicola che sta scendendo nei suoi locali, diciamo. Ehi, ciao Nicola, alla prossima, dai. Sì, come dice Sparviero, quando coincide, dai, ok. Saluto e buona serata. Sì, buona serata, un saluto circolare a tutti i presenti nel QSO, a tutti i presenti. Io scendo perché sono qui dalle 5:30 e adesso sento un po' di freddo. Bene, chiudo, grazie, a domani. Ciao Nicola, ciao. C'è qualcuno che possono fare? Marco, che fai? Mangi? Ehi, colazione. Oh sì, ho capito. Oh, mamma mia. Allora, Gianni, non se ne può fare nel caso dell'ana, sì, ce l'ho di Marco. Cioè, questi orari, quando posso fare una mascherina, ma adesso non so se sta stai qui, insomma. E cosa vuoi? Siamo un po' tutti così, dai. È come il ginepro. Una volta che il ginepro che è cresciuto vicino al mare, cazzo, è pigiato, non è che lo puoi mettere dritto. Quindi fondamentalmente è così. Ma siamo un po' tutti così, dai, quindi. Ma scommetto che lui si trova bene anche a livello, insomma, per tutta una serie di motivi, presumo che si trovi bene, quindi se si sta, tra virgolette, ingordando, buon appetito, dai. Eia, eia. Sì, già, come hai detto tu, è tutto proporzionato. Cioè, si tardi, colazione tardi, fare tutte le cose tardi, pranzare tardi, cenare tardi e dormire tardi, però è proporzionato. Potrei anche buttare tutti gli orologi di casa e vivrei bene lo stesso, calendari, orologi, tutto. Tipo un limbo, mi vivo in una bolla temporale, come direbbero in Star Trek. Vai Gianfra. In una dimensione parallela, in cui il fuso orario è totalmente sballato. Oh yeah. Vabbè, ma se fosse stato comunque al posto di Nicola, diciamo così, io ce l'avrei fatto un pensierino, visto che c'era un problema di condominio, a mettere qualcosa nel terrazzo, anche nascosta se necessario, però c'è il certo nel terrazzo non è un direzionale, soprattutto se poi secondo dove si trova il terrazzino, se è passante, se c'è un palazzo di fronte a 10 metri del sito stesso. Però su queste cose lo sappiamo tutti, no? Si va anche a tentativi. Lui ha detto che comunque rispetto all'altezza dell'abitazione è circondato da palazzi un po' più alti, è come se fosse in una conca, capito? Però più lunga è l'antenna, anche se bassa, arriverà sempre meglio che con l'antennino da dentro casa. Va bene, io ho visto anche di peggio alla Latte Dolce, negli anni 80 c'era un CB che aveva la mantova attaccata al terrazzino, che era anche basso, chi era? Torre Biggio mi pare, la mantova una attaccata al terrazzino, cose incredibili. Sì, no, ci sono casi anche peggiori, non è detto che se sono alta, se sono buona. Io sono un caro amico che è capo di Gesù e neanche il telefono arriva, è una cosa micidiale. Proprio lui capita in una zona, una specie di conca che c'è lì, ma veramente è una disperazione, i telefoni, i cellulari, neanche a palla, non si può mettere internet via tutti, perché non c'è strano. non arriva l'Inter, non arriva tutti questi servizi, quindi figurati, il 27 è forte, forse potrebbe andare quello segno di fuori. Ma proprio di striscia, perché poi ci sono le colline, proprio va in casa. Ed è aprile, ma sono altissime. Gli sport di 100 metri per il mare, questo. Però io l'ho fatta la casa, o si sposta la casa, oppure niente, però non riesce neanche a telefonare, perché aveva un pochino la Omnitel, infatti la tutta quella è fatta, le altre morte. Vabbè, riprendi Gianni. Ehi. Cosa volevo dire? Allora Gianfra, mi dici come ti sto arrivando? Fa la cortesia. 1, 2, 3. La pepina fa il caffè. Guarda, sei un pochino oltre il 9.20, cioè o meglio. Qua dice 9.20, poi può essere anche un 9.25, perché lo sai, no, passato il 9. Quindi la radio 5 va bene così, non è né troppo né troppo poco, proprio da non toccare, è amplificata eccetera, quindi va bene, niente da dire. Anche se comunque quella che io preferisco più di tutti, perché non mi ci costanza, anche col morso in bocca, sempre chiarissima, eccetera, è quella di Marco, non so infatti che microfono cosa stia usando, però è... Quasi sì, anche lui che ha una voce che si presta, allora... Entro io, vabbè, Marco magari ci avrà il morso in bocca. No, condivido, confermo e sottoscrivo. Adesso, vabbè, io parlo di gusto assolutamente personale. A livello di timbrica, di chiarezza, di risposta in frequenza, per quanto sia, stiamo sempre parlando di una radio AM con tutte le sue limitazioni, e via dicendo, forse una delle radio che c'è, dei suoni, chiamiamoli proprio la percezione, il suono che mi arriva all'orecchio, è una delle migliori che preferisco, non me ne vogliono gli altri, però dai, ognuno è singolare, è unico, quindi, però a livello proprio di ascolto è quella che preferisco di più. Ehi, Gianfra, allora, questo è il Superstar omologato, quello importato dalla Proxel, e il microfono è quello di serie, che è marcato Star, e praticamente premi verso l'alto il PTP, il tasto, no, anziché premere verso il basso come erano alcuni microfoni, premi verso la zona alta del tastino. Non so dire altro. Io certe volte parlo a tre quarti, cioè non frontale così al mic, ma di tre quarti quasi di taglio per evitare il pu-pu-pu di quando parli, capito Gianfranco? Sì, te lo confermo. Tu sai che io mi occupo molto di apparecchiature professionali. Registrato il break, tra poco rifaccio entrare. Per mio parere, per la mia esperienza, quella radio è la radio ottima, eccellente, la 5 su 5 è vera e giusta. Tutti gli altri, posso dire, che lavorano qua in AM con quella radio che hanno, che tracca, amplificata, eccetera, già in FM verrebbe in salita da poter gestire, perché andrebbero tutte in saturazione, capito? In digitale proprio non ci potrebbero neanche andare, perché è molto rigida, deve rispettare dei parametri di banda strettissima e tutte quelle cose. Quindi niente, ti devo fare i complimenti a te e soprattutto anche all'apparato, che è molto fedele. C'è un break, avanti, buona serata. Dai, buonasera a tutti, già le doppio rumo. Per entrato. Ciao Eugenio. Eugenio. Cosa ha cambiato? Spacciatore oggi? Davvero? Oia, 240 euro quel tipo, la mucchina, i guanti e una mascherina, 140 euro. Che farà Buzzi? Lo sai che spesso Gianni ti danno le tute non adatte? No, con la tuta è il kit o no? Non lo so se ci sia anche la tuta, Marco, non me lo ricordo, però mi ricordo solo il prezzo, che era esorbitante. Arrivati a questo punto, i guanti ve li faccio dare a chi dico io, la mascherina me la faccio io. Ne ho già una a casa, userò quella Vita Natural Durante, perché se non ne arrivano altre, ho telefonato alla farmacia, mi ha detto che teoricamente le ho ordinate, ma praticamente non sono arrivato. Ehi, in Viale Trento ho sentito lo stesso, loro le hanno ordinate ma non sono arrivate, perché probabilmente le hanno dirottate a tutti gli operatori sanitari, protezione civile e forza dell'ordine. Ma tu chirurgiche le hai ordinate o quelle diverse, buone? No, quelle buone, quelle che ti fanno il becco tipo Paperino, che hanno il segno per il naso. Ehi, ahia. Va bene, dove eravamo rimasti? Gianni, se tu volessi far sentire se ce l'hai a portata di mano, il mic originale di quell'apparato, dovresti uscire nelle mie stesse condizioni. Ascolta una cosa anche, Gianfra, che io ho questa voce nasale perché il setto nasale è deviato internamente. E quindi ho perennemente la voce nasale, è molto nasale, brutta, la mia voce a me non piace, non piace assolutamente. Quando mi hanno registrato e l'ho riascoltato, ho detto meglio non parlare, guarda. Va bene, vai Gianni. Guarda, adesso tecnicamente non posso accontentarti, sto finendo di chiudermi il computer, quindi ho quasi finito, mi devo riassemblare il cassettino con gli hard disk perché gli stavo dando una spolverata, però se appena finisco recupero la scatola della radio e eventualmente possiamo fare un test. Scusate, devo scappare via, ma non c'è una faccenda. Buona serata a tutti, alle prossime, riprendi Marco, fa girare, ciao. Ehi, ciao Gianfra, buona cena, buon tutto e alle prossime. Riprendi Eugenio, riprendete un po' voi che la serata è lunga, devo mangiare a lungo. Vai Eugenio. No, ma non c'è Lupo Grigio, ha chiuso da tanto. Il profeta può essere, vai lo profeta. Io sono quello piccolo. Ah, Gianfranco, quello che ha chiuso è Gianfranco quello. E lui c'ha Monte Oro davanti ed è molto negativo per il Porto Torres. Ascolta, ma Santiago 3 di quell'apparato del 3009? Perché sono falsati i numeri. Vabbè, è lungo da spiegare, comunque sono tutti falsati. Praticamente come regolato il mio, il Santiago 3 è un Santiago 7 reale, paragonato al Kingwood, all'allora 140 K. Vai doppio room, dai, prendete voi però. Quindi io ti dovrei arrivare 9.30. Vai a comprare gli apparecchi. Marco, ma tu ne hai uno in più di quelli lì? Io ho due 3009, questo omologato e quello un po' meno, però esce bene, avevo dovuto eliminare quella scatolina anti-TV e purtroppo lì non... tutto saldato dentro fuori, io non ho capito come abbiano fatto a chiuderla, a sigillarla così, puntellata, poi elettrosaldata, mi ti volevo dire. Ho dovuto bypassarla, per il resto è una bombetta. I canali sono quelli, la potenza aumentabile, la modulazione c'è già di lusso. Facciamo baratto, il tracco baratto. Barattiamo, là. Dimmi, Eugì. si è bloccato anche a me una volta, mi dava segnali bassi, proprio bassi, cioè proprio non saliva la lancetta perché sfiorava quasi la, il pannello curvo, no, dove c'è la serigrafia. E... oppure potrebbe essere il potenziometro che regola lo smitter, perché lo puoi regolare anche, no? Potenziometro che fa micro scarichette, lo fa anche da nuovo, mi è, certe volte questi apparecchi maracchini sono oggi. Comunque è buono che i segnali siano saliti, magari adesso sono più realistici, guarda, io sto uscendo con 3 watt, dal filtro escono 3 watt, dimmi il segnale mio e ti dico il tuo, così se corrisponde potrebbe essere giusto, vediamo. No. No, Eugenio, non è normale, non posso arrivare a 9 più 10, nemmeno con lineare né nulla, no, troppo, si è starato di brutto, ma si è starato molto. Tu per esempio qui arrivi 5, Santiago 5 allo strumento, ma reale è Santiago 8, Santiago 8 reale, me lo ricordo perché facevo il paragone col Kenwood, è modulato 8 e un quarto, cap, vai doppio rumo. KK, vabbè, sono più particolari quegli apparecchi. Quando ne hanno pure ti danno il segnale buono, quando ne hanno pure te lo danno brutto. Sai cosa c'è da fare già? Allora, l'ho visto da un tecnico, credo inglese, cioè, dice, si chiama Lazy Smitter, cioè smitter tirchio. Lì bisogna cambiare un diodo, se non ho capito male, con un diodo più sensibile, poi una volta cambiato il diodo bisogna applicare l'iniettore di segnali, cioè strumentazione professionale all'apparato, e tarare tot microvolt tot Santiago, no? Una volta fatta la taratura, almeno i segnali dall'1 al 9 sono fedeli, ma c'è un video, se lo trovo, se la pazienza è guardartelo, te lo manderò, è in inglese ma si capisce cosa fa. Naturalmente però una volta fatta questa taratura, lo smitter più di 9 più 10 non va, cioè massimo non segnerà 9 più 10, quindi poi se più dai controlli più giusti per i segnali da 9 in giù, però poi uno può essere anche sotto casa, ti arriverà 9 più 10. A questo punto me lo tengo così, fino a poi non è saldature, non è faccio lì, oh, non ne tocco. Riprendi. Sì, ma infatti poi ci vogliono saldature all'aria lì, non è che sia saldare così, no. Bisogna saperla fare le saldature piccole sui circuiti. No, ad aria, no, componenti classici, qua sono enormi i componenti, bella resistenzone, diodoni, questo componenti classici, ci mancherebbe. Ma tu ne hai uno fermo di quelli? E diciamo non... sa cosa mi rompe? Il filtrino anti-VI, eliminato quello io non mi fido. Nonostante io stia usando un filtro anti-TVI esterno della RM Italy, quello a multiple celle, io lo lascio sempre per sicurezza e anche perché il cavo grosso mi aveva dato quel problema, che faceva forza sul PL, invece gli arriva dal filtro arriva un RG58 che è bello leggero, morbido. Ma non ce la fai a aprire la scatoletta di saldarla? No, ho dovuto stracciare, non... già una cosa minuscola, poi termo elettrosaldata, io non lo so fare e non lo voglio fare. Ma tu basta che ci metti un filtro tipo questo, guarda che è della RM Italy oppure Midland, ti attenua di 80 dB, cioè ti attenua di 80 dB le eventuali spurie armoniche dai 8 MHz in su, capito? E 80 dB sono tanti di attenuazione delle spurie e delle armoniche, molti. Invece quelli ZG di solito sono, penso, 20 dB di attenuazione, seppure, se non sono decimi. Sì, ne parliamo, là. A te ti piace il Cobra, vero? Eia, però non so se mi piace abbastanza da... fammi pensare. tu sei il diavolo tentatore già, mi piace sì il Cobra. Componenti SMD è quello, no? Vabbè, ma trovate che funzioni poi, quanto dura dura. Meglio. Poi, vabbè, riprendete, dai, fate girare, fatemeli girare, dai. Prendo, ma vi saluto perché sta per arrivare la pizza, a meno 20 mi arriva la pizza, dai. Che oggi ce l'ho fatta beccarla bene. Ah, è la pizza. Ai frutti di mare. Ciao, Tonino Kawasaki. Ciao, Pizzoni. E beh, Cavatappi. I zappi di Zimbogazzi. E allora, che fine hai fatto che ci dite? Avevo mai citato, boh. Ha detto, Tonino è scomparso. C'ho molto da fare, ca. Qua c'ho un canile, poi c'ho un porcine, poi c'ho un gallinaio. Ah, c'è pure il bestiame. No, ah, però posso pure il bestiame. Certo che ti ascolto, produttore, se pio pio ma già ti ascolto. Chi sì? Ciao Zinio, la radio è tipo sulle 4, cioè è ultima, dai. Santiago è pio pio ovunque, Santiago 4. Ok, d'accordo. E oh Gianni. Nara. Allora questa pizza com'è? Ai frutti di mare, tapponato. E me, solo per te, ora te la prova mai inventata per me. Sì, già ordinata da 3 ore la pizza, me la stanno portando. Ah, 3 ore? Allora ci ho ancora a buccia, non a pigliare i frutti di mare. No, ma li mettono freschi questi di via Valdetta, sono una delle poche pizzerie che ti mette le cozze fresche, i gamberetti, eccetera, eccetera. Mette tutto fresco, è bella saporita. Alla prossima tu. Dai, tranquillo, l'importante è che tu stai bene, puoi camminare, dai. Kappa, me lo auguro qua più presto perché non è possibile. Oh, e poi non possiamo uscire, ma con la casa, che tu vai, boh. Anche quello, sì, ma non abbiamo fatto nessun reato, siamo gli arresti domiciliari. Oh, yeah. E mi sa che venga che cosa di Ronfi o in giro questa Asturia. Hanno visto carri armati americani sbarcando, a tutto andare. Lì non so, me l'ha detto, fate mio figlio, dei carri armati. Casino. Non si sa, si vuole messa nella Russia. Lui ammazzava tutti i missionati. Per me è l'ISIS che ha buttato un po' di polverina. Andiamo bene di baracca. Chissà cosa ci spetta, non sappiamo nulla. Poco ci manca che il virus l'abbiano diffuso tramite scie chimiche, dagli aerei. No, quello non c'entra niente. L'ISIS l'ha buttato, l'ISIS. Vuole ammazzare tutti quelli che sono in pensione, quelli che devono andare ancora no. La massa. Oh dai, un attimino di QRX per me che mi devo spostare. Ci sentiamo dopo, già, buona pizza. Ciao Genio e ciao. Grazie Tony, dai, buona questa greca, dai, sentiamo. Avanti ma. Ehi, ciao Tonino, dai. Sentiamo. Sì, l'INPS fa di tutto anche, possibilmente per non darmi. A mamma le avevano bruciato una parte della pensione perché il provveditorato ha perso un documento, no? E, vabbè, bisogna vedere com'è andata. Se no avrebbe preso di più di pensione, capito? Gli hanno bruciato alcuni anni di che avrebbe avuto di... Già capito, già. E di contributo. Vabbè dai, io vi saluto, vi auguro un buon continuo QSO, faccio un correttore che sta per arrivare, se no mi becca e alzarmi, un po' ci vuole per me. Dai, ci sentiamo, alle prossime. Ehi, ciao, buona cena, già, ciao. Ciao Gianni, ciao Eugenio e ciao Tonino. Buona carica, dai. Ciao Gianni, ascoltiamo le prossime, allora, buona pizza. Chi c'è rimasto qua? Anche Eugenio ha chiuso. Kappa Rosmetro, ci siamo io, tu e Franco. Buonasera Franco. Ciao Gianni. No, c'è anche Tonino Kawasaki, mi sembra. No, si è spostato. Era un ammasso, però già l'ho sentito. Queste serate, vabbè io non è che sia molto attivo però quando è per costrizione è una rottura. Va bene, incassiamo. Mi sono anche dimenticato di aprire il pacchetto che era arrivato oggi, porca miseria. Me lo sono anche disinfettato, perché è arrivato troppo in fretta dalla Cina, lo sai, ci ha messo meno di 10 giorni, ho detto praticamente ho spruzzato alcol sul pacchetto che era di plastica, no? Di busta di plastica, già capito, no? Quelle, come si chiama? Buste, buste. E allora è arrivato con i medici dalla Cina? Poco ci manca. No, era Bartolini. Non ti fa manco avvicinare il corriere, cioè se la molla lì nelle scale va a vederci un giorno, te lo firma lui, ma non vogliono avere contatti che loro, figurati, tutte le persone che devono vedere sono più a rischio, corrieri, portalettere, no, postini, eccetera. Ti dice l'autonomia va bene, se no non lo porto via. Ma poi mi ha parlato di un codice di sicurezza, dice, gli hanno mandato il codice di sicurezza al cellulare. Io ho detto no, non mi è arrivato niente. No, no, vabbè, l'importante è che, non so, me l'ha mollato sulla scala e se n'è andato. Se no può firmare lui, no? Con quello schifo di display elettronico, no? Che la firma viene brutta poi, non è come sulla carta. E la postina è lo stesso, i pacchi dice, guardi, glielo metto in cassetta e firmo io. Aspetti, venga, mi dia un bacio almeno. Oh, Natalì, mi stavo per chiedere se eri in radio, perché ho aperto WhatsApp e nell'istante in cui l'ho aperto ho visto la schermata per un istante di, come si chiama l'applicazione, di Skype, però si è richiusa proprio una frazione di secondo. Allora ho immaginato che stessi chiamando, però forse ha interagito, come ha aperto un'applicazione e si è chiusa l'altra. Non ho ancora capito Skype, se è difettoso sul mio cellulare o cosa. Vabbè, comunque dai, io devo mangiare il resto, quindi vi lascio in rotto. Capito Natali? Parla un po', modula un po', dai, che lì se non mi viene male con Skype. E chiama tu allora su Skype. Ciao. Ma novità Natali, tutto a posto, sì. Ehi, è poco veloce. Dubrofè. Caparrosmetro, dimmi tutto. Ehi, Natalino ha fatto toccata e fuga. E dopo lo chiamo per sapere se ci sono novità belle e brutte. Belle no. Dai, vi devo lasciare. Devo completare il pasto, che non sono soddisfatto. Riprendete, chiamate qualcuno se c'è, se non ho voglia di modulare, se no. Marco! Oi! Ascolta, ti faccio ascoltare una cosa. Eia! QTC per chi ce l'ha, chi ha l'ascolto? Chi è che mi manda la foto del sindaco che dice si faccia favore, vi cudo, no, vi gribbo, mandatemelo. No, fra, abbiamo parlato in due, scusa, rimetti cosa era. Ciao Google, ascolta, oggi posso uscire di casa un po'? No, devi stare chiuso in casa in quarantena fino a nuove disposizioni, grandissimo coglione. Ma chi è? Alexa quella è, c'è la simulazione di Alexa. Ehi, me l'hanno mandato su WhatsApp, me l'hanno mandato. Questo ha chiamato adesso dice posso uscire di casa oggi, ma devo rimanere a casa in quarantena, moltissimo coglione. No, ma secondo me è un trucco che hanno fatto, non credo che risponda così, a meno che qualcuno non ci abbia messo lo zampino, per dare rispostacce. Eia, Alexa, Siri, che altre, qual è l'altra? Cortana, Google, poi noi parliamo. Tra poco Skynet, vero è già? Ehi, guarda Marco, dopo su Telegram, su WhatsApp ti mando un paio di cose molto, molto, molto, molto, molto interessanti. Così ti fai un'idea che qua la gente attraverso, cioè, per colpa del panico non ci sta più capendo niente, quindi, insomma, sai, stanno facendo tipo a conto confusione, no? Ci sono delle cose molto discutibili, quindi dopo ti mando qualche documento ufficiale, cioè ti mando proprio la gazzetta ufficiale dei primi febbraio, credo. Ok, invece avevo vista quella del 31 gennaio io. Forse stiamo parlando della stessa cosa, dai. Per aprile vedo un po' di problemi. Ah, problemi pure in arrivo. Io ho letto che c'era scritto che l'emergenza sanitaria dovrebbe durare 6 mesi. Cioè alla fine mi gioco anche l'estate, è molto di più secondo me. Questa roba si trascinerà. Bisogna vedere sempre cosa c'è dietro, chi c'è dietro. Ok, dai, vi devo lasciare per forza. A dopo, ciao. Sulla gira c'era la prima e non ci hanno detto niente nessuno. Una cosa puzza. Vabbè, io mi sto ancora chiedendo il computer, perché gli ho levato un po' di polvere da dentro, insomma, ventole, ventoline, frizze e lazzi, quindi ho ancora il computer aperto, tra un passaggio e l'altro mi stavo cercando di finire, mi sa che non posso lasciare la roba così, quindi mi sa che dai, ti saluto anche io e niente, dai, ci sentiamo quanto prima, alla prossima, e niente, per stasera è tutto, dai, a risentirci presto. Ciao, ci sentiamo, dai, nessun problema. Buona serata. Ciao, grazie anche a te.